bisogna avere anche l'umiltà di capire che è un momento in cui bisogna lavorare testa bassa e cercare di tornare ai livelli dove eravamo, perché in questo momento io non vedo prospettive di vittoria per una squadra italiana da qui per parecchi anni in Champions League. Possiamo dire chi se ne frega stasera? Ma proprio chi se ne frega, lo possiamo dire a voce alta. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Le pinne, fucile, d'occhiali, d'occhiali, d'occhiali. Medella all'indietro, fa partire il contropiede della Juventus, clamoroso infortunio. Matri è messo giù, calcio di rigore. Claudio Marchisio, anche contro il pane a rigore Andanovic. You're packing magic in, you're making habits in, you're automatic, you are the way you are. Si è alzato Morata con il destro. Non se ne era accorto, perché era papera di Andanovic. Non è possibile a volte vedere errori tecnici così, cioè siamo lì, non possiamo farli. Bisogna fare qualcosa in più, bisogna fare un salto di qualità, bisogna avere qualcuno che aiuti questi ragazzi sul campo a farlo, bisogna avere giocatori che con la qualità, con la tecnica, con l'esperienza, giocatori di grande personalità, e quindi dobbiamo trovare questi giocatori. Tu ieri cosa hai detto? Beh, io credo che sia dispiaciuto, cioè una sfortuna, poveretto, che non riusciamo a dargli una gioia. Poi oggi era anche il compleanno di Moratti, quindi avremmo voluto vincere anche per dedicargli la vittoria. Pazienza, ci dispiace. Ci racconta com'era il rapporto all'inizio, più che con Conte, con il fantasma di Conte, cioè lo incrociava in ogni angolo di Vinovo? No, assolutamente, non avevo nessuna preoccupazione, tanto nel calcio l'unica cosa che conta è fare risultati, se fai risultati sei bravo, altrimenti non me lo fate dire. No, non glielo facciamo dire, 800 24 00 24, prendete nota, siamo qui fino alle 19 in diretta, quindi ci chiamate, vi aspettiamo per parlare di Juve-Inter di ieri sera, per parlare della rabbia del Milan sugli arbitri. Poi vi dico una cosa che penso su quello che ha fatto oggi Inzaghi, che praticamente si è rifiutato, ciao Carlo Genta, di commentare la sconfitta del Milan a Reggio Emilia contro Sassuolo, perché ha detto troppi errori arbitrali, condizionanti. Poi 17.35 vi daremo anche qualche retroscena di questa partita. Intanto il Cagliari in Serie B ufficiale con 180 minuti d'anticipo. Saluto Fabrizio Ravanelli, ciao Fabrizio. Ciao Fabri. Ti è mai capitato di vincere una partita a San Siro con le pinne, il fucile, gli occhiali? Cioè, quasi un po' per sbaglio, perché io vorrei partire da qui, cioè da quello che abbiamo visto ieri sera a San Siro, e che è stato diverso dal film che in tanti si erano immaginati. No, non mi è mai capitato, però credo che la Juventus sia in un momento di euforia, di autostima, di forma psicofisica fantastico, e quindi gli riesce tutto, e credo che questa condizione faccia ben sperare anche per la finale, perché questa stagione è stata una stagione fantastica. Adesso c'è subito questo appuntamento importantissimo mercoledì prossimo, e credo che sia di buon auspicio questa vittoria, perché la Juventus ha dimostrato ancora una volta di essere veramente una squadra. Ma senti, ma 20 giorni che mancano alla finale di Berlino, secondo te sono il tempo giusto per tenere questo livello di forma, o come qualcuno ha detto in queste ore sono un po' troppi, cioè c'è il rischio che l'apice sia passato poi? Ma no, io credo che la bravura dei tecnici della Juventus, dei preparatori atletici, saranno in grado di tenere alta l'attenzione. Poi credo che la Juventus questa finale lo aspetti talmente con grande ansia, a differenza del Barcellona che ultimamente ne ha fatte le finali, le ha vinte, le ha perse, è uscita in semifinale, mentre la Juventus credo che sotto questo punto di vista la cattiveria, il discorso psicologico, la voglia di arrivare in finale sia totalmente diversa da quella del Barcellona. Il Barcellona è riconosciuto da tutti che sia una grandissima squadra, la Juventus lo ha dimostrato e ha dimostrato a tanti scettici che non credevano in questa squadra di essere una squadra attrezzata per poter lottare con questa fantastica squadra e con le fantastiche squadre di come Bayern Monaco e Real Madrid, perché io credo, è una mia opinione, la Juventus non ha niente da invidiare a queste squadre. Sì, è una Juventus che si è profondamente ristrutturata, in maniera strutturale però, viene da dire Fabrizio, perché è una Juventus che insomma non trova avversari nel campionato italiano e non li troverà neanche l'anno prossimo. È una Juventus che è nell'elite, credo, del calcio europeo insieme alle grandi che conosciamo, le due spagnole, Chelsea e Manchester United. Queste sono le squadre con cui ormai compete la Juventus. Assolutamente sì, anche perché credo che la Juventus abbia, a iniziare dal portiere, forse il portiere più forte del mondo, il pacchetto difensivo, credo che se andiamo a analizzare le prime quattro squadre della Champions League, tre centrali come le area Juventus non ce l'ha nessuna squadra, perché Chiellini, Bonucci e Mazzaghi siano di un valore incredibile, centrocampisti, centrocampo, Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio non ce l'abbia nessuna squadra, davanti Tevez e Morata, quindi non vedo queste squadre nettamente superiori alla Juventus. Noi italiani siamo sempre bravi a dire che l'erba del vicino è sempre più verde, sì. Però io credo che noi italiani siamo sempre disfattisti, la Juventus è forte, lo dimostrerà, lo ha dimostrato e lo dimostrerà anche in finale, perché non credo che il Chelsea, per dire, fare una squadra che è rimasta fuori dalle prime quattro, sia attrezzata nonostante tutti i soldi spesi, che a livello individuale possa essere più forte della Juventus e come organizzazione di gioco possa essere più forte della Juventus, perché quando io vedo un pacchetto difensivo fare degli errori clamorosi ABC di calcio come il Chelsea, per dire, non posso confrontare con tre giocatori che conoscono la fase difensiva a memoria come i tre centrali della Juventus. Sì, come abbiamo visto, le coppe e i campionati si vincono sempre nella fase difensiva. Il che ci fa anche sperare in vista dell'Europeo dell'anno prossimo, perché quella della Juventus è l'ossatura poi della nazionale, e quindi magari dovremo anche fare prima o poi un ragionamento su quanto ci piangiamo addosso in vista di questo Europeo, che insomma ce lo descrivono come un miracolo anche solo qualificarci. Fabrizio, ti devo chiedere un minuto di pazienza e intanto, perché c'è il traffico, ti chiedo se ti ricordi dove eri il 20 aprile del 1996. Traffico. C'è un po' il timore nello spogliatoio, insomma, che questo momento magico magari possa un pochino scemare strada facendo, visto che la finale è ancora lontana. Parlo della finale di Champions, evidentemente. Se vai a vedere il calendario sembra lontana, ma arriverà molto in fretta, quindi è importante rimanere concentrati. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24 20 aprile 1996. Fabrizio Ravanelli. Dove eri? Non me lo ricordo, no, allora io. Non è una domanda facile. Ve lo racconto perché è stato. Non ricordo neanche dove ero ieri. No, l'ha ripescato un amico. 20 aprile 1996, Inter-Juventus 1-2. Gol di Lombardo, Conte e Ganz. Tre giorni prima la Juve si era qualificata per la finale di Champions League a Nantes. Finale di Champions League che sarebbe stata all'Olimpico contro l'Ajax. Che Fabrizio, beh, questo te lo ricordi com'è finita? Sì, beh, 22 maggio me lo ricordo benissimo, Quella è difficile dimenticarsi, quella vittoria, anche perché battemmo una grande squadra che aveva battuto il grande Milan, una squadra che era sicura di sé, con Van Gaal alla guida, dove diceva che sicuramente la Coppa sarebbe tornata con lui. C'è un po' di analogia con questo Barcellona che ci arriva da grandissima squadra, quasi sicuramente favorita. Ma il Barcellona, a differenza dell'Ajax di Van Gaal, è molto più umile. Van Gaal era molto più presuntuoso, credo che anche le dichiarazioni di Piqué abbiano fatto capire come in pratica faccia abbia timore di questa Juventus, quindi credo che il Barcellona sappia che la Juventus sarà un ostacolo duro, sa che sarà veramente dura. Senti, prima di chiudere ti faccio sentire, perché è tema di cui si discute da un paio di giorni, la risposta che ieri ha dato Zanetti a Sacchi a proposito del triplete della vergogna. Vorrei sapere poi cosa ne pensi anche tu. Che fatto abbiamo fatto le dichiarazioni di Arrigo Sacchi che ha definito il triplete dell'Inter una vergogna? Io credo che vergognoso sia dover commentare questa frase. Purtroppo anche in passato ha detto delle frasi poco piacevoli nei confronti dei ragazzi della primavera, adesso si è ripetuto con questo del triplete. Io credo che il calcio deve unire, non dividere, però soprattutto perché manca di rispetto alla storia di una grande società come quella nostra. Fabrizio. Credo che Sacchi non ha, con questa dichiarazione non voleva offendere, forse magari è stata, non dico fraintesa, però lui credo che voleva enfatizzare la vittoria, la finale della Juventus, per il fatto che ha veramente il blocco, lo zoccolo duro di questa squadra italiana. Credo che il suo riferimento sia stato questo. Forse magari non ci si può vergognare male, di un triplete, di una vittoria, qualunque sia il numero, non ci si deve vergognare. Assolutamente, anche perché l'Inter fece una stagione fantastica, vinse meritatamente, quindi vuol dire, al di là di tutto, non si può dire niente di quell'anno dell'Inter, del triplete, quindi chapeau. Però io credo che Sacchi volesse rimarcare ed enfatizzare il fatto che la Juventus sia una squadra dove lo zoccolo duro è formato da calciatori italiani, e oggi credo che sia orgoglioso, al di là dei colori, sbandierare questa annata fantastica della Juventus, perché noi siamo sempre disfattisti e credo che la Juventus con questi giocatori, soprattutto vedere un Marchisio leader a centrocampo, uno dei centrocampisti più forti al mondo, il pacchetto difensivo con Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci. Pensare che David Luiz è stato pagato 56 milioni è una cosa orribile, e Barzagli 400.000 euro, mi viene da dire chi veramente fa il mercato qualche volta, o magari chi sì, ci sono logiche alle volte insondabili, chi fa parte del calcio come possa lavorare in questo mondo. Allora mi viene da pensare che sotto magari ci possono essere tanti interessi che vanno al di là del calcio, perché pensare che Barzagli valga 400.000 euro e David Luiz 56 milioni, vale più o meno l'1%, qualcosa meno. No, ma ti dico, io ho commentato quest'anno, per dire, il difensore che secondo tanti è il più forte al mondo, dove magari lo scorso anno Mourinho, dopo 10 partite, spostò subito a centrocampo perché capì che dietro faceva qualche problema, e vederlo anche quest'anno subire, magari essere ricolizzato dal Barcellona, subire due gol, al di là dei tunnel, mancare in pratica nell'ABC del calcio, nella fase difensiva, prendere gol, marcare un giocatore come Müller nella semifinale di Coppa del Mondo e fargli fare gol in un calcio d'angolo di una semifinale, calciando la palla al volo dall'area piccola, cioè queste cose. Chi è che le analizza? Chi è che le guarda? Chi è che le commenta? Ma sai benissimo che a volte ci sono le mode e poi ci sono anche logiche di mercato che sono complicate da inseguire. Sì, ma queste mode però portano magari ad allontanare giocatori italiani che possono e che valgono, e allora magari siamo sempre riempiti dalla bocca, ci facciamo riempire la bocca magari da nomi stranieri o da stranieri. E questo io credo che Sacchi volesse far capire al calcio italiano, e questo non tanto quanto far offendere l'Inter, ma far capire che in Italia ci sono ancora giovani dove magari poter puntare, perché noi abbiamo mandato via un Verratti, un certo giocatore Verratti, che io lo commento sì, che poteva tranquillamente restare nel nostro campionato, si poteva scommettere su di lui. Nel nostro campionato a 12 milioni, che è diventato uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo. Cioè, io vedo questi giocatori qua, pensare che il giocatore anche del Milan, che adesso mi sfugge il nome, è andato al Benfica. Cristante, Cristante. Cioè, ma perché noi siamo costretti a fare questo? E poi ci facciamo del male da soli, ma perché? Per quale motivo? Poi siamo costretti a comprare centrocampisti che non valgono niente, però vengono dall'estero. Allora ce la facciamo una domanda? Ma ce ne facciamo anche più di una, Fabrizio. Ce ne facciamo anche più di una. Grazie, Fabrizio. Ciao, Fabrizio. Ce ne facciamo un sacco di domande. Grazie, Fabrizio Ravanelli. Adesso arriva uno, il protagonista vero del fine settimana. Arriva subito. Tra 3 anni ci saremo la Dindi con la Dindi, Froginone, non manco esiste Froginone. Lo so. Il Garbi. Certo. Latina. Che bover il Frosinone in Serie A! È la festa di tutto un territorio! È la festa ciociara! Il Frosinone in Serie A è un'impresa clamorosa ottenuta da Stellone e dai suoi ragazzi dopo il Garbi. Un'altra grande sorpresa! Saremo in Serie A col Frosinone. Il canarino in alto volerà. Beh, noi siamo una dimostrazione vivente insieme al Carpi che c'è la possibilità di arrivare se solo si sogna e lo si fa nel modo sano e nel modo giusto. Saremo in Serie A col Frosinone. È pronta a festeggiare la città. Onestamente mi aspettavo di stare nella griglia dei playoff perché la squadra lo aveva dimostrato di valere durante tutto il campionato. Siamo stati sempre tra le prime 8 posizioni. Che poi avesse questo guizzo finale con cui è riuscito a fare 6 vittorie e 2 pareggi, ottenendo i pareggi su 2 campi molto difficili, questo io non me lo aspettavo. Saremo in Serie A col Frosinone. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, siamo riusciti a raggiungere l'irraggiungibile all'inizio anno e quindi siamo molto contenti di aver regalato la gioia così grande sia ai tifosi che alla società. Siamo sociari e chi ci fermerà? Si vincono i campionati perché si incastrano tanti fattori. Noi siamo stati bravi a farli incastrare tutti quanti, quindi è una soddisfazione immensa. Non pensavamo nessuno all'inizio dell'anno di raggiungere questo obiettivo. Strada facendo ci siamo accorti che ce lo potevamo fare. Alziamo su il bicchiere. Roberto Stellone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Beh, intanto grandi complimenti. Ma quello è l'inno del Frosinone, no? È una canzone creata così. È la prima volta che la sento. Bella, L'avremmo tirata fuori ieri sera. Meravigliosa, guarda. Ho i brividi. No, ma comunque non è l'inno ufficiale del Frosinone. Meno male, meno male. Come ci si sveglia in Serie A? Non mi sono svegliato perché non ho dormito, quindi. Sono felicissimo, dai. È un sogno perché comunque. Non pensavamo, all'inizio dell'anno avevamo obiettivi diversi, avevamo la salvezza, mantenere la categoria, valorizzare i nostri ragazzi giovani del vivaio e invece poi stava facendo, come ho detto, in tante occasioni quest'anno ci siamo accorti che potevamo fare qualcosa in più. E alla fine, come ha detto il presidente, nelle ultime 8 gare abbiamo fatto 20 punti e abbiamo vinto questo campionato. Veramente nessuno se lo immaginava, sono veramente strafelice per il presidente, per la società, per i tifosi, ma soprattutto per i ragazzi, perché avevamo 10 debuttanti in Serie B compreso, insomma, quindi è stata veramente una gioia immensa. La prova che lo titolo non conta niente, Roberto? Vero. No, so che a te non piace, a te e a tutti, ieri insomma avete evitato di parlare di quella cosa lì che noi abbiamo fatto risentire all'inizio. Io però ho l'impressione che un po' vi abbia stimolato in questo finale anche di stagione straordinario. Quelli del Carpi un po' l'hanno detto dopo la promozione. Ma sì, forse quelle parole lì, quella telefonata, ma anche pareggio, diciamo, nel finale con l'Entella, dove andammo in vantaggio di 2 gol dubbi, un'espulsione nostra ai danni di Sodimo inventata, e riuscimmo ad andare sul 3-2 per noi al 90esimo, un altro rigore regalato, e lì secondo me c'è stata veramente la forza del gruppo, perché potevamo veramente mollare, invece lì c'è stata una grande reazione, perché poi da lì in poi abbiamo fatto veramente l'impossibile. Senti, ma che modello avete ora che sbarcate in Serie A? Cioè, l'idea è di tenere questo impianto di squadra, l'idea è di fare qualche inserimento, pensate di fare come l'Empoli o magari come il Sassuolo, che invece è arrivato in Serie A e poi al mercato di gennaio ha comprato 12-13 giocatori il primo anno per salvarsi? Ma sinceramente ancora non ne abbiamo parlato, perché saputo tutto ieri, è successo tutto, quindi, ma conoscendo il presidente, conoscendo il direttore, sarebbe attento. I miei credenziali, penso che manterremo lo statuto della squadra. È normale che qualche giocatore verrà preso, non so quanti, non so in quali ruoli, lo decideremo in questi giorni, ma l'obiettivo sarà quello di mantenere lo statuto della squadra che ha fatto tanto bene quest'anno e che ha fatto altrettanto bene 2 anni fa in Serie C. Tu come te lo immagini lo sbarco in Serie A? Non lo so, però prova a chiudere gli occhi, credo sia il 22-23 agosto che comincia il prossimo campionato. Torino contro la Juventus. A Torino contro la Juventus. Andremo lì e una bella festa. Cercheremo di vincere. Una bella festa, certo, bravo Roberto. È bello esserci, no? Sì. Senti, ma veramente una gioia incredibile, la gente è impazzita per Frosinone, veramente grandi soddisfazioni. Io da giocatore ne ho 24 di campionati da qui a là, in piazze poi importanti come Napoli, Lecce, Torino, Genoa, ma viverla così da allenatore è veramente una goduria incredibile, veramente. C'è un gusto. Tu sei il primo che dice questa cosa, cioè meglio da allenatore che da giocatore. È diverso, si gusta di più. Diverso. Sì, è veramente diversa perché hai logicamente più tensioni, più pressioni, più responsabilità, quindi è come quando le cose non vanno bene sei più avvilito rispetto a quando comunque giocavo da allenatore, le gioie vengono triplicate veramente. Perché spesso in tanti rimpiangono la carriera da giocatore con le emozioni, le sensazioni che gli ha trasmesso. Tu sei il primo che sento dire il contrario. Intanto in bocca al lupo e complimenti ancora. Grazie. Posso farti sentire una cosa? Aspetta. Sì. Ieri sera. Ieri sera un altro presidente ha parlato del Frosinone. Aspetta. Lei lo farebbe un film sul Frosinone che è in Serie A? Su che? Frosinone. Cardi, per esempio. Ma no, quelle sono due belle realtà. Io un vedone a Frosinone, così mi faccio una bella magnata, lì c'è il salame buono. Ce lo invita o no Ferrero? Sì, ma domani ci sarà la premiazione a Frosinone del trofeo Maestrelli e ho letto che sarà premiato anche lui. Viene in anticipo, comincia a portarsi avanti. Comincia a portarsi avanti con i lavori, va bene. Qual è il salame di Frosinone? Non so, scusate l'ignoranza. Ma non lo so, io non ho mai mangiato il salame a Frosinone, però Pare c'è il ciabuscolo. Non lo so, sono ignorante, confesso. Grazie Stellone. Grazie. Ciao Roby. Ciao Roberto. Grazie Roberto Stellone. Ci fermiamo un paio di minuti. 800 24 00 24 e poi la grande rabbia del Milan. Al di là di quello che aveva detto il presidente Lotito. Ma Lotito ne dice tanto, a me quello che dice Lotito non me ne frega niente. Però vedi, Lotito strilla e c'ha ragione. Io sto buono, sto zitto, sto gentile, difendo gli arbitri e ma sono preso a Frascati, no a Frosinone. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Cadi quando ti danno un gol che non è entrato, per cui secondo probabilmente era un episodio dubbio e forse in fuorigioco, e questo ti fa cambiare la partita perché insomma vai sotto 2-0 meritatamente quando avevi in mano la partita e poi è dura reagire. È venuta l'espulsione di Buonaventura, primo giallo non c'era, secondo è molto dubbio perché quando sei a un centimetro non può essere volontario il fallo di mano e quando rimani in 10 a 35 gradi per mezz'ora. Difficile commentare una partita del genere, come a Napoli diventa difficile e dispiace perché bisognerebbe parlare di calcio, alla fine oggi si fa un po' fatica onestamente. Questa è la moviola chilometrica di Pippo Inzaghi di Sassuolo Milan. Tutti contro il Milan, eh? Sì, cioè, Milan non conta più niente. No, c'è questo riferimento che fa Inzaghi alla partita di Napoli, dicendo sostanzialmente che anche gradi come a Napoli, Mazzarri quella volta, dicendo sostanzialmente che anche a Napoli il Milan è stato danneggiato dall'espulsione di De Sciglio dopo pochi secondi. Ora, regolamento alla mano, espulsione di De Sciglio assolutamente da cartellino rosso. così come in realtà anche oggi era da rosso l'espulsione di Bonaventura per i due gialli, il secondo fa un fallo di mano e da regolamento così è. Poi c'è tutto il resto, perché oggi il signor Guida e i suoi assistenti non ne hanno azzeccata una a Reggio Emilia, o quasi. Fammi salutare intanto Furio Fedele del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao Furio. Ciao, buongiorno a tutti, eccomi. Allora, va bene gli episodi, poi magari la facciamo la moviola, ma io insomma vi leggo rapidamente quella che ha fatto Sport Mediaset, che sostanzialmente dice: le uniche cose azzeccate sono l'espulsione di Bonaventura e la simulazione di Ondà, tutto il resto è sbagliato. Quindi tutto il resto considerate come se non ci fosse: i primi due gol del Sassuolo, il 2-2 di Alex, mancano un rigore per parte, insomma. Però al di là degli episodi, Furio, non è un po' comodo dire, inutile nemmeno parlare di questa partita, perché è stata condizionata. Comico, dai, fa tutto abbastanza ridere. Ma sì, sicuramente la situazione, quella palesata da Inzaghi, era a caldo ovviamente, abbastanza di incredulità. Io vorrei dare un altro contributo alla vostra moviola. Secondo me l'unica cosa che ha azzeccato è stata l'espulsione di Suso al 50° del secondo tempo, quel fallo, fallaccio su Magnanelli, quando sì, Milan poi è rimasta in 9. Certo è che ad esempio fino all'ultimo, fino a quando non si è riuscito ad avere una visione completa dal punto di vista televisivo sul gol non gol dopo la papera, perché è stata un'incertezza molto grave di Diego Lopez, ecco, da lì poi si è cominciato ad analizzare la prestazione dell'arbitro, che è stata gravemente insufficiente. Sicuramente non è stato un bel Milan, non è stato sicuramente un Milan parente di quello che aveva battuto con merito la Roma solo una settimana fa. È un Milan che di strada ne ha fatta poca, e andando avanti così, se non cambieranno le cose, l'anno prossimo ne farà ancora meno. E poi è chiaro che Inzaghi ha cercato di salvarsi in calcio d'angolo in maniera forse anche un pochino ingenua, parlando soprattutto dell'arbitro, ma è sempre, anche questa volta è stato un Milan troppo brutto da vedere, troppo brutto per essere vero, insomma. Sì, sei d'accordo anche tu, insomma, che è parso un po' aggrapparsi, cioè in fondo alla fine Guida quasi miglior alleato in questo dopo partita. Ha fatto gli errori e li abbiamo elencati, ce ne sono davvero tanti. Sì, oggi basta vedere poi e leggere le dichiarazioni di Di Francesco, l'allenatore del Sassuolo, che invece ha completamente sorvolato sulle decisioni arbitrali, nonostante appunto il gol di Alex sia stato irregolare, perché c'è stato uno scontro con Consigli, il portiere del Sassuolo, e c'è un rigore anche a favore dello stesso Sassuolo. Però ecco, da parte milanista questo è stato stigmatizzato in maniera molto ruvida, e da parte invece chi ha vinto, e da parte appunto di un ottimo Sassuolo, tutto questo è passato in sordina. È chiaro, sì, è un po' il gioco delle parti, eh? Sì, è la solita cosa, succede sempre nel calcio, a maggior ragione quando ti trovi in difficoltà, come è in difficoltà Inzaghi in questo campionato. No, siamo comunque al Milan che si lamenta per l'arbitraggio contro il Sassuolo dopo che ne ha presi tre, dopo la ennesima sconfitta stagionale. Sì, sembra tutto espulsi, un po' paradossale, Furio. 12 espulsi, quelli di oggi sono l'11° Bonaventura e il 12° Suso espulso. Ti dirò, ma solo perché ovviamente mi sono consultato anche con il mio giornale, anche le due ammonizioni a Bonaventura, la prima va bene, ma la seconda non so se notate che lui effettivamente ha il braccio leggermente staccato, però il pallone gli arriva abbastanza violentemente e comunque era sulla traiettoria. Però posso essere cattivo, Furio? Sì. Ammonizioni simili che hanno portato al secondo giallo in passato al Milan sono sempre andate benissimo. Io mi ricordo, se non sbaglio, un derby con l'Inter rimasto in 10 per un fallo. Cioè, il regolamento dice che se tu interrompi il passaggio da un compagno all'altro, e comunque quello che è accaduto, sì, ti esponi al rischio, ti esponi al rischio del giallo. Certo, no, ma ti dico onestamente, il mio risultato della partita è stato sicuramente a favore di un risultato positivo come è stato del Sassuolo, che ha fatto di più, ma soprattutto ha approfittato della pochezza del Milan. Il Sassuolo oggi per la prima volta era salvo, con tre giornate d'anticipo, ha giocato sicuramente con la mente sgombra e libera e ha meritato il successo. Dopodiché poi se vai a pensare, ma ti ripeto, sto facendo cronaca, che il primo episodio dubbio è stato quel ball non goal, che il pallone in realtà non ha mai varcato la linea di porta, poi da lì è lecito nei panni di Inzaghi, ma ripeto, sempre nei panni di Inzaghi, crearsi degli alibi che possono essere anche sostenibili, non almeno fino a fine campionato. Poi sarà sicuramente un'altra storia a questo punto. Sì, sicuramente per quanto riguarda la panchina, non so per quanto riguarda il Milan, ma questa è una vicenda che racconteremo. Ciao Furio, grazie, a presto. Ciao Furio Fedele. No, non so quanto riguarda il Milan, perché poi per seguire le vicende sulla cessione societaria serve il navigatore satellitare. Vende, non vende, ai cinesi. Buonasera. Oh, presidente, buonasera. Buonasera agli amici Cuesi. Stavamo giusto parlando di lei, Stavamo giusto parlando di lei. Sì, oggi non è andata benissimo. Anche lei ce l'ha con l'arbitro. Guardi, ho visto una squadra con un'ottima organizzazione di gioco. Sì, cioè il Sassuolo. Due gol in un Francia spiritoso. Due gol irregolari, di cui uno alla supercazzola, rosso di Bonaventura, ingiusto, sì. E vi assicuro che nessuno di noi ha mai fatto del male a Berardi. No, eppure questo, però presidente, pensi che anche la sua televisione Mediaset dice delle cose un po' diverse, però a noi interessa di più parlare della trattativa con i cinesi. No, risulta. Guardi, ci interessa di più capire, insomma, se vende o non vende. Guardi, ecco. Le posso parlare, come del resto ho sempre fatto, con assoluta tranquillità e trasparenza. Bene, ci dica. Ecco, Antani come trazione per due, anche se fosse presidente, supercazzola bitumata, voglio dire, presidente, allo scappellamento, no, a destra, no, non a sinistra. Seriamente, cosa cioè, vende, non vende, la maggioranza? Dunque, Tapioca. Sì. Tapioca come se fosse Antani, la supercazzola ha lo scappellamento a sinistra. E presidente, le stiamo chiedendo della trattativa con i cinesi, perché un giorno dice che vende tutto, un giorno dice che vende, che non vende, che resta. Un giorno quindi scusi, Xi Jinping, dipende il presidente. Da che giorno è. Guardi gente, allora, Capuano, prego. Scusatemi. Prego. Ma se lo chiedo di privilegio come se fosse Antani per lei. Xi Jinping, Tapioca o non Tapioca? No, presidente. Ha la supercazzola prematurata. Ma vende o no? Presidente, ci lega una parola chiara. Gliela dico immediatamente, sì. Carissimo Capuano. Sì. Con lo scappellamento a sinistra, supercazzola bitumata, coesa. Presidente, arrivederci. Con terapia. Non mi pare abbia le idee chiarissime. Traffico. È tutto molto chiaro. Tutti convocati. Convocati. Avrei firmato dopo il warm up per questo secondo posto col sangue e soprattutto un gran secondo posto per il campionato, molto importante, e poi mi sono proprio divertito perché andavo come un missile. Quest'anno in gara siamo forti, la nostra moto funziona molto bene. Questo Valentino Rossi, secondo Alemán Gran Premio di Francia. Roberto Ungaro, ciao. Ciao, un saluto a tutti. Contento ciao, lui, contento ciao. Lorenzo, un po' meno contento Marquez. Che succede? Il dato politico mi sembra che, insomma, Marquez fa la battaglia con Iannone per quarto e quinto posto e sembra di essere entrati nella macchina del tempo. Il ragazzino non è ancora maturo, sente la pressione, c'è da dire che la Honda non è a puntissimo, forse è veramente diventata una moto un po' rigida e scorbutica, ma non è questa la giustifica. E io dico che la testa c'è, e la testa, l'unica testa che c'è è quella di Valentino, perché Lorenzo è risorto, ma sappiamo tutti che può ricadere sotto pressioni psicologiche. Marquez appunto è ancora, ha fatto vedere tutto già quello che può fare, però questa instabilità è nervoso, sotto pressione fa degli sbagli, guida male. L'unico che veramente è una costante, mi piace ripetermi, ma è Valentino a questo punto, che con 15 punti sta guardando da lontano, è il più costante e alla fine è quello che emerge e viene fuori. La Ducati c'è anche lei, molto competitiva, però avete visto il passaggio di Valentino su Dovizioso, grande determinazione di Bale, ma Dovi aveva anche tirato i remi in barca. E quindi c'è da dire anche questo, nella cronaca non è venuto proprio fuori, è venuta fuori solo l'enfasi di Valentino, che c'è tutta perché ha aspettato il momento giusto, la vecchia volta è venuta fuori. Certo, fa un po' disperare perché il venerdì e sabato non troverà messa. Ecco, comincia a essere un po' un limite, soprattutto in una stagione in cui a questo punto apertamente può puntare al mondiale. Sì, però vedete che poi c'è, gli altri pensano, sa, chi è lì a combattere sa che poi la domenica c'è Valentino, però io non voglio dire che sia strategia, ma anche in questo fa capire che comunque lui comunque dopo c'è, vorrebbe venire fuori prima, vorrebbe mettersi a posto anche il venerdì e il sabato, però lui è sicuro di esserci. E per la battaglia, guardando il campionato, guardando quello che ci aspetta, secondo me davvero è lui che può gestire questo campionato. Marquez risorgerà perché deve risorgere e può farlo, però ad esempio le moto non interverranno, le case sulle moto per risolvere i problemi, perché l'anno prossimo si correrà con le Michelin, quindi un cambiamento fatto oggi serve per l'oggi e il domani, perché l'anno prossimo sarà tutto nuovo, si tira una riga. Tra l'altro in discrezioni sento dire dei piloti fra i box, perché ufficialmente le gomme vanno bene, però ho sentito dire che questa Michelin non è così convincente, l'anteriore come sempre è stato del Michelin, parte di colpo, non dà questa affidabilità, quindi i piloti e le case sono preoccupate per il futuro, perché ne vedremo delle belle, potranno cambiare le carte in tavola. È chiaro che ufficialmente le diranno che vanno bene, però è una gomma completamente diversa. Voi sapete che con monogomma sono le moto che si devono adattare e vengono progettate per la gomma, non è più come quando c'erano più tipologie, più brand, che allora ognuna sposava un telaio, sposava una casa. Oggi invece la gomma è fondamentale perché la moto viene costruita attorno a quello. Quindi immaginatevi l'importanza. Sì. Ecco, una Honda che è nervosa, anche Pedrosa ha dichiarato nel web che a lui piacerebbe una moto pulita, semplice come la Yamaha, perché non si addice la Honda al suo stile di guida. A me viene da dire, ci hai messo 7 anni, accorgerti, cioè è chiaro che la Honda è così. Lui è piccolino, è vero, guida pulito, su una Yamaha forse andrebbe anche meglio. Però sembra Inzaghi, sacche d'alibi per Camomillo. Ormai però Roby, quello che volevo dirti è Lorenzo che ha stampato 2 gare in fotocopia come sa fare lui, no? Cioè, ma sì, ce lo ricordiamo, cioè, praticamente vince sempre allo stesso modo, prove perfette, partenza perfetta, fa il primo giro a 33 a 33 e 0, che è un tempo da qualifica, è e li pettina tutti e li lascia lì. Però sa vincere così. Quando non è nelle condizioni di vincere così, quello che volevo dire io prima è che Vale di testa e alla fine c'è di più, cioè sa metterci una pezza nel momento del bisogno, sa aspettare. Sì. E invece Lorenzo si irrigidisce quando poi ha un problemino o quando non è tutto a posto come lui vorrebbe, e alla fine non viene fuori il risultato. E invece Valentino, anche nelle difficoltà, io è questo che volevo dire, che a differenza Lorenzo è un combattente, un leone, ricordiamoci quello che ha fatto. Adesso qua si dice tanto, si dà dell'eroe a Iannone per una spalla uscita, ma l'anno scorso ad Assen ci ricordiamo Lorenzo in aereo è andato a farsi operare, è tornato indietro a corsa, allora bella madre, voglio dire, sì, io mi aspetto però un duello mentale che prima o poi Valentino Rossi aprirà con Lorenzo, se e com'è, insomma quest'anno Lorenzo rischia di essere il suo avversario numero uno e ce l'ha in casa. Certo. Succederà qualcosa che Valentino farà per cercare di destabilizzarlo, gli passerà sopra, sotto, da qualche parte gli passerà. È lì che dicevo, in quel campo lì, testa contro testa, Vale non ce n'è, illudiamoci degli abbraccini che si danno a fine gara, è tutta finzione. è tutta finta pro fotografi. Ti chiedo 30 secondi invece su Romano Fenati, che oggi ha scritto anche lui una bella pagina. Ora che tornasse. Era ora, io vorrei dire però ragazzi, era ora che facesse quello che deve fare, non è obbligato a farlo, ma da lui ci si aspetta quello. Bellissimo il podio italiano, metto lì, sono gli ultimi secondi, una cosina che magari farà parlare, sono stato io con la Superbike, ho sentito dire che Melandri ha firmato, rientro l'anno prossimo in Superbike con Yamaha. R1, moto nuova, vuole tornare, e si sente dire, ormai è confermato, anche se non c'è l'ufficialità questa cosa, però infatti vedete che insomma tira a finire la gara Milan, perché alla fine di testa è già nel 2016. Sì, vederlo, vederlo navigare all'ultimo posto stringe il cuore, quando sono passati gli altri due e lui si è spaventato come se gli altri facessero un altro sport. Ragazzi, stiamo parlando di Melandri, appunto, sì, non di uno che è abituato a tirarsi dietro. Grazie Roberto Ungaro. Ciao Roby, ti abbraccio. Ciao. Direttore di Riders. Intanto a Roma Djokovic 6-4, 2-0, 40-0 contro Federer. Ho l'impressione che tra un quarto d'ora questa finale è agli archivi. 8-0-0-24-0-0-24. Torniamo dopo il GR. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend. 8-0-0-24-0-0-24. Se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Buonasera, la pressione torna nuovamente a diminuire a nord-ovest, bel tempo molto coeso e positivo su gran parte del centro e del sud, al nord molte nubi con piogge, temporali e possibili burrasche sulle zone centro-settentrionali di Arcore, nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. In Cina e Thailandia, bel tempo soleggiato su tutte le zone, temperature in deciso aumento. Come sono andato? A me sembra che sono andato molto bene, e se non mi prendono neanche stavolta Cribbio, vuol dire che a Confindustria sono proprio comunisti. Tutti convocati. Meraviglioso Andrew Mercou, lo prendiamo o no? Lo prendiamo. Ma tutta la vita lo prendiamo, ma dai, ma stai scherzando, gli facciamo fare anche traffico, poi fa tutto, lavoro, meteo, tutto. 800 24 00 24, radio, volendo 349 238 6666. Giuseppe dalla provincia di Brescia. Sì, ciao, eccoci. Niente, io volevo parlare un po' della tifoseria della Juventus. Sono juventino. Sì. E secondo me la grande forza della Juventus è la sua tifoseria. Quando ingiustamente ci hanno mandato in B e noi abbiamo seguito la squadra a Crotone, a Rimini, dappertutto, oggi che il Milan e l'Inter fanno fatica, io vedo che allo stadio non c'è nessuno. Sì, io ricordo dei gran vuoti allo stadio, al delle Alpi. Adesso io non enfatizzerei troppo, però è vero che la grande forza nel momento della Serie B, la squadra e la società, i tifosi non hanno mollato la squadra. Non in questo ordine, la grande forza della Juventus è la società che è riuscita a costruirsi e a ricostruirsi in questa maniera. Poi ha una squadra che merita tutto quello che sta guadagnando. Pier. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto bene, dove sei? Sono in Liguria. In Liguria. Primo giorno di mare. Ah, capito. Ieri sera eri a Marassi. Poi hai tirato lungo. Vediamo se Pardo batte Berlusconi, dammi le informazioni meteo. No, giornata bellissima. E da dove partiamo? No, da dove partiamo? Voglio farti partire da questa cosa qui. No, la temperatura. La temperatura, no. Dell'acqua, del mare. Quali sono le condizioni del mare? Hai fatto il bagno? No. Hai fatto il bagno? Sì. Hai fatto il bagno? Ho delle chiazze. Cioè, un lato del corpo che è rosso, l'altro che è bianco. Insomma, sembra tipo la bandiera della Polonia. Temperatura dell'aria? Ma no, è bellissima. Bellissima. In realtà, maggio è. Maggio, se fa caldo si sta da Dio. Sì. Certe volte si sta meglio in maggio che agosto. Ma anche, io non ho mai anche qui in studio non si sta male, devo dirti la verità. Abbiamo spento anche l'aria condizionata, così ci sentiamo vicini particolarmente al tuo dolore. No, sì. Voglio partire, poi c'è anche Claudio della provincia di Teramo, da questa cosa che ha detto ieri Mancini e che a me è sembrata incredibile. Cosa servirà all'Inter del futuro per ridurre questo divario con la Juventus, che in questo momento sembra così netto, evidente, nei confronti non soltanto vostri, ma di tutte le squadre che vorranno in futuro lottare per lo scudetto? Non è così netto, sono più forti, non è così netto, e secondo me se noi riusciamo a fare delle cose giuste, fatte bene, credo che il divario possa diminuire, e poi in un campionato le cose possono cambiare, quindi in questo momento sono sicuramente più forti di tutti. Oh, io non so come la pensi tu, ma il divario non è così netto tra Inter e Juventus, in realtà tra, anche tra la Juventus e tutte le altre, però... Io ho fatto due conti, ultime quattro stagioni, 132 punti di distacco tra la Juve e l'Inter, 31 fin qui in questa stagione, non lo so. Sì, sì, ma sai, questo è il Mancini che abbiamo sentito per tutto l'anno, un Mancini anche molto diverso rispetto al passato, in questo sicuramente più morbido, più sereno, più ottimista, forse salvo quel famoso Inter Parma, che è stato il momento in cui ha cambiato, è diventato improvvisamente una furia, ma in assoluto per tutto il resto della stagione è stato sempre molto conciliante, molto responsabile delle sconfitte, ha parlato comunque di miglioramenti che erano possibili, ha sempre detto che dal prossimo anno, cioè questa dichiarazione qui di oggi non è altro che il continuum di altre dichiarazioni che abbiamo sentito, cioè la consapevolezza e la convinzione di poter già dall'anno prossimo costruire una squadra in grado di lottare per vincere, che mi sembra un azzardo onestamente a vedere le cose, quindi sono d'accordo con te, mi sembra abbastanza coraggioso, però forse fa parte anche del mancinismo in questo momento, del cercare di dare una... guarda, domenica ieri, professione di fede. Dai. Ieri su Premium abbiamo fatto la nostra Premium Cam, che è il nostro servizio... di Maragutti, di Simone Maragutti, che facciamo ogni volta con delle immagini dedicate ed esclusive, ogni volta su un tema diverso. E il tema di ieri era Allegri Mancini, perché il vero paradosso di questa stagione è che Allegri non lo voleva nessuno, era considerato, innanzitutto Allegri e Mancini sappiamo che sono stati i protagonisti del ballottaggio in quelle ore dopo l'addio di Conte, nel senso che l'alternativa possibile era o Allegri o Mancini, cioè era uno dei due. Che poi si ripercuoteva anche sulla nazionale, sempre in quelle ore. Assolutamente, quindi da quel momento in poi lì ha scelto, la Juve ha scelto Allegri piuttosto che Mancini, sarà interessante magari poi parlarne con Marotta, ma chiaramente anche Mancini sarebbe stata una scelta di grande profilo, di grande livello. Mi hanno raccontato anche Spalletti, che sì, per qualche ora è stato quasi seduto sulla panchina della Juventus. Sì. Quindi però i nomi erano quelli, e ieri c'era questa sfida abbastanza incredibile fra l'uomo che era stato richiamato a furor di popolo sulla panchina dell'Inter e quello che all'inizio non era assolutamente voluto su quella della Juve, e Allegri che vince con le riserve, con la squadra B che vince in casa dell'Inter, anche se poi ieri non specifico c'era un episodio arbitrale che poteva cambiare la partita e poteva andare sul 2-0, però insomma sono dettagli secondo me rispetto alla sensazione che ancora una volta la Juve ha saputo dare, cioè quella di essere più forte oggi e più forte in prospettiva, nel senso che veramente può andare avanti per altri 4-5 anni senza grandi problemi. Però Mancini del resto, insomma, se non pensasse quello che ha detto ieri, non... Sì, probabilmente non starebbe nemmeno a Milano. Ecco, non starebbe lì, no? Forse si sta autoconvincendo, perché ripeto, 132 punti in 4 stagioni quasi concluse fanno 33 di media a stagione, sì. E difatti quest'anno sono 31. 800 24 00 24, non so come la pensate voi, traffico. Ci sembra decisamente giù di morale, ma giù lo è stato. No, sono giù di morale. Afono. No, perché a un certo punto l'abbiamo vista giù in tutti i sensi. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto Djokovic ha vinto 6-4-6-3 contro Federer, avevamo detto un quarto d'ora, sono passati più o meno 18 minuti, quarto successo per il serbo, successo complicato nel primo set dove Federer ha avuto anche una palla break molto importante, vinto il primo set, poi Djokovic ha passeggiato nel secondo contro Roger Federer, dunque Maria Sharapova e Nole Djokovic sono i due re di Roma. 800 24 00 24, Claudia dalla provincia di Teramo. Claudia? Pronto? Eccoci. Pronto? Prego. Buongiorno, parlo con Pardo? Sì, c'è anche parlo lui, con... c'è anche sì, lui. Sì, eccoci. No, devo parlare con Pierluigi Pardo, urgente. Vi lasciamo da soli. Urgente. Prego. Urgente, con il signor Pardo. È lì. Dica. Qui, signora, mi dica. Allora, io telefonai a settembre, non so se si ricorda, io sono tifosissima dell'Inter, però da piccola facevo il tifo per il Cagliari. Sì. E dissi che il Cagliari, non so se si ricorda, a settembre l'Inter perse col Cagliari 4-0, 4-1, una cosa del genere. Sì. E io avevo detto a lei che il Cagliari tornava in Serie B, allora voglio dire che ho indovinato. Signora, cioè, mi dispiace perché... Certo. Mi dispiace perché mia mamma ancora non le telefona, è tifosissima del Cagliari, anzi io ho iniziato a 10 anni e scrivevo le letterine, come le dissi, però io già ho indovinato. E poi volevo dire un'altra cosa, che telefonai al signor Gente, che adesso non c'è. No, sì, c'è, ci sono tutti, signora, presente, siamo qua. Sapevamo, Claudia, noi Claudia, sapevamo che lei chiamava, e quindi noi li abbiamo convocati tutti, prego, quindi siamo, c'è qui anche il signor Carlo Gente. Volevo dire, gli avevo detto, voglio parlare con lui, che l'Inter con Mancini non faceva niente, era proprio inutile, un buco nell'acqua. Io sono una donna, non è, cioè io sono tifosa, però non è che me ne intendo a livello tecnico. Sì. L'Inter è inutile, le minestre riscaldate non vanno bene, basta, l'Inter non farà più niente per un altro 40-50 anni che basta, mi dispiace, 45. Ma è... Questa è tipo la maledizione di Bella Guzman. lo so, però guarda, ci sono... da fare. Signora, ci sono un sacco di posti da DS o da allenatori disponibili. Sì. Secondo me sul mercato qualcosa si possiamo può possiamo lanciare la sola Claudia. No, io difatti volevo chiedere, visto ne approfittiamo, visto che ce l'abbiamo di nuovo, se ci dice come va a finire a Berlino. A Berlino io voglio vedere Messi che alza la coppa, solo quello posso dire. Vabbè, allora mettetevi il cuore in pace, amici miei. No, ma io voglio vedere Messi che alza la coppa. Qui c'è della scaramanzia. Va bene. Allora, amici juventini che vi state scannando per i biglietti di Berlino, mettetevi il cuore in pace, magari fate anche un paio di affari. Ecco, perché la coppa la alza Messi. L'ha detto la signora Claudia dalla provincia di Teramo. Messi. Claudia, ci risentiamo fra un mesetto, dai. Va bene? No, ci vediamo. No, io poi le dico no, ma io per scherzare, anche perché siccome i juventini gufavano quando l'Inter fece la scena, i juventini proprio gufavano in maniera pazzesca, allora io, ma sempre a livello sportivo di gioco, però, per carità, ci mancherebbe, sono una persona che è leale, assolutamente, anzi, cioè a me non è che... Sì, anche se c'è la teoria che per gufare bisognerebbe fare il contrario, dire no, ma io sono sicura, la vince la Juve. Lo so, la Juve è un po' fortunata quest'anno, però io ho sempre fatto anche il tifo per il Barcellona, praticamente solo quando ho giocato con l'Inter ho fatto per tifo per lei, però io mi auguro che vinca il Barcellona, anche se la Juve è fortunata quest'anno. Bene, okay, grazie Claudia. Grazie mille, complimenti. Meravigliosa. Bruno da Viterbo, Bruno. Salve. No, non sarà facile fare uguale, prego Bruno. Buonasera a tutti, senta una cosa. Sì. Quando ieri sera ho sentito la partita, diciamo, in sulla radio, sì. Alla fine il commento era che l'Inter era una pochezza e la Juve era strapotenziava tutto quanto. Sì. Ma com'è possibile dopo che gli hanno annullato un gol che dicono che era regolare? L'altro gol c'era, l'altra volta hanno mandato fuori l'attaccante facendo un cartellino giallo dicendo che non c'era probabilmente, cioè, ma perché deve essere sempre aiutata? Non è, uno può essere tifoso, può essere sportivo, ma non può essere preso sempre in giro. Sì, però Bruno, il tema secondo me è che evidentemente il 2-0 di Brozovic era regolare, Pierre, quindi lo diciamo, sì, e togliamo dal tavolo questa discussione. Ci stava anche l'espulsione di Vidic. Ci stava anche l'espulsione di Vidic, ma giustamente gli interisti dicono fossero 2-0, la questione era chiusa, però... A me sembra, insomma, che l'Inter, le partite, quelle che contano, quelle che possono cambiare il senso della stagione, le regala. Sì. A me è venuta in mente ieri la partita di Wolfsburg, 2,5 gol regalati. Ieri l'Inter ha regalato 2 gol. Cioè, è questo, secondo me, il tema, al di là dell'episodio arbitrale. Sì, è questo. Poi Inter-Chievo, tutte le volte che deve fare il salto di qualità, soprattutto a San Siro, fa in grande difficoltà. Poi devo dire ancora una volta che questo è un campionato pieno di errori arbitrali, ma ancora una volta io non trovo una linea, non trovo un capito, anche volendo essere dietrologi, ti faccio l'esempio di questa settimana, noi venivamo dalle proteste furibonde della Lazio dopo Lazio-Inter e comunque da qualche episodio arbitrale, ad esempio il primo gol assolutamente in fuorigioco, e l'Inter ieri invece è stata, diciamo, sfortunata dal punto di vista arbitrale sul gol di Brozovic. e al tempo stesso la Lazio è stata fortunata perché c'era un'evidente trattenuta di cose in un episodio decisivo, per cui insomma faccio fatica, ma questo tante volte l'ho visto da una parte e dall'altra durante la stagione. Ci sono tanti errori, ma faccio fatica a identificare una squadra, un disegno, un filone, un disegno, ecco. Non c'è l'uomo nero, anche se pesano, tecnico, anche se ieri è vero che l'Inter ha giocato anche meglio all'inizio della Juve, però in una partita come quella di ieri, che sembrava veramente quasi un'occasione per lasciare spazio all'Inter, no? Con la Juve comunque con la pancia piena, senza tanti titolari, beh, insomma, questo tipo di risultato, la Juve assomiglia un po' all'Inter che non vince col Parma, non vince col Cesena, non vince col Chievo, poi per carità su valori diversi, non stiamo facendo un paragone, però Pier, ce l'hai lì su un piatto? Sì, non è ancora lasciato. Fammi salutare Franco Tancredi. Ciao Franco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Per parlare di un Roma Udinese che ieri Rudy Garcia ha introdotto così. È più una questione di essere pronti a morire sul campo domani che altra cosa. Sappiamo che rimangono 3 partite, sappiamo che siamo secondi, sappiamo che abbiamo il nostro destino tra i nostri piedi e sappiamo che se vinciamo le 2 prossime partite saremo secondi e sarà finito. Siamo alla chiamata alle armi, Tancredi. Beh sì, come ha detto lui, mi sembra che bisogna almeno vincere 2 partite su 3. Come ha detto anche lui, alla morte, speriamo che non sia quella vista a Milano la squadra, bensì una squadra un po' più reattiva, una squadra un po' più motivata, anche perché sul piano economico e tecnico arrivare secondi vuol dire tantissimo. E poi secondo me hanno, dopo questa, diciamo, questo inizio 2015 fino alla partita di domenica, hanno l'obbligo i giocatori di dare una soddisfazione ai tifosi battendo i cugini nel derby. Questo sì, è il minimo che possono fare. Sì, è il minimo per far dimenticare un 2015 disastroso. Ha detto ieri Garcia un po' così, ha detto anche che il ritiro punitivo non serve a nulla. Io non so nemmeno se si possa chiamare ritiro quello che ha fatto la Roma in questa settimana. E io sono d'accordo, da ex giocatore odiavo i ritiri, quindi io penso che non servono, però insomma vedo che ancora ci sono squadre che lo fanno e con ottimi risultati. Io continuo a essere della mia idea, per me è un male, perché poi chiusi in questi alberghi oppure in questi centri sportivi, insomma, non è il massimo. Secondo me io li eviterei. Pier, è un mio pensiero. Sì, ma io pure penso che non sì, tu li eviteresti, però è un dato di fatto che Garcia mi pare il secondo allenatore dopo Benitez cui in un certo senso viene imposta questa scelta. Beh, si va lì per lavorare. Sì, io credo, adesso interpretando un po' quello che è il dibattito che c'è a Roma, il sentimento che c'è a Roma, a Garcia non è che stanno imputando di aver fatto allenare troppo la squadra quest'anno. Stanno imputando la cosa inversa, stanno imputando di aver mollato un po' lui in testa rispetto alla passata stagione e di aver famoso discorso delle doppie sedute. Poi Franco, che chiaramente ha grandissima esperienza, ci confermerà che non è che più ti alleni e più vinci, perché altrimenti basterebbe fare 4 sessioni al giorno. Il calcio da questo punto di vista è diverso rispetto ad altri sport. Credo... È vero, è verissimo quello che dici. È verissimo, anche perché poi dopo, come dicevi prima, né Benitez né Garcia l'hanno accettato volentieri, anche perché all'estero poi addirittura si vedono allo stadio anche quando le cose non vanno bene, quindi io penso che un ritiro punitivo non porta mai a niente, e soprattutto quando si parla di allenamenti, io penso che ne puoi fare, come diceva Pardo, anche 4 in un giorno, no, non è questo. Devi andare sulla qualità e fai quell'ora e mezza, 2 con grandissima intensità e quella lì basta e avanza. Quindi, Oggi intanto Totti torna al centro del villaggio romanista. Io non so se sia un caso, se sia un modo anche questo per Garcia in un certo senso per remare dalla stessa parte della corrente, evitarsi problemi. Ma io penso che Francesco, già domenica quando è entrato abbiamo visto, è chiaro che quest'anno è stato sfruttato oltremodo perché purtroppo la carta d'identità è quella che parla, però vedendo gli altri giocatori penso che Francesco sia ancora integro e meriti di giocare. Grazie Franco. Ciao Franco. Franco Tancredi. Il punto è proprio quello. Sì, il punto è proprio quello. Gli altri giocatori, cioè, soprattutto quelli arrivati a gennaio, capito, senza tornare Roma, sempre sul solito discorso. La Roma è quella lì, appunto. Gennaio è stato letale e in assoluto Totti non è stato certamente il peggiore, tutt'altro, della stagione della Roma. Poi che in qualche partita, poi è chiaro che non gli puoi chiedere un lavoro dinamico come se avesse 25 anni. Però se guardiamo le responsabilità e le prestazioni dei giocatori della Roma di quest'anno, non è certamente lui la pietra dello scandalo. Detto questo, ci può stare pure che rimanga in panchina, nel senso non succederà stasera, cioè è normale, è fisiologico che un giocatore che ha dato così tanto. Però non vorrei buttarla troppo sul melodrammatico, ma la Roma a me sembra, o sul letterario, sullo psicoanalitico, la Roma mi sembra una squadra rotta dentro. Beh, la Roma è una squadra in grande crisi fisica prima di tutto, secondo me. E ma anche emotiva. Sì, certo, ma sai, l'emotività poi alla fine basta anche poco, nel senso che poi alla fine mancano tre giornate alla fine, non è che c'è da affrontare le prossime 30 partite. Ecco, se ci fossero 30 partite da affrontare, sicuramente la Roma non potrebbe tenere il ritmo della Lazio, Mancano tre, è lì appesa che cerca di arrivare in fondo in qualche modo per poi voltare pagina. Questo dal punto di vista psicologico è abbastanza evidente. Oggi, notizia che vi do, la Lazio ha ufficializzato la richiesta di spostare il derby a lunedì 25. E poi vedremo se alle 3 o alle 6 ci sono anche problemi di ordine pubblico e c'è anche la Roma che è tutt'altro che d'accordo. 800 24 00 24, torniamo subito dopo con l'uomo che la Serie A, che giochi pomeriggio, sera, mattina, deve cercare di venderla in tutto il mondo. Se la finale Coppa Italia era stata messa dal calendario il 7 giugno, ci sarà stato un motivo, perché credo che tutte le squadre dovevano finire e pensare esclusivamente al campionato. Non è un problema la finale Coppa Italia mercoledì prossimo, anche se la Juventus chiaramente ha qualche vantaggio, perché avendo già vinto il campionato chiaramente si può permettere di pensare solamente alla partita di mercoledì, mentre noi abbiamo ancora tanto da chiedere al nostro campionato. Credo che però sia corretto che noi abbiamo le stesse situazioni dei nostri avversari, quindi credo che sia corretto che venga spostato il derby. Per me, ovviamente, che giochiamo domenica, lunedì, martedì, mercoledì o giovedì prossimo non cambia nulla, sarà una gara dove faremo di tutto per vincere. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Io vorrei sapere da te, Pier, cosa ne pensi del Frosinone in Serie A. Abbiamo parlato prima con Stellone alle 5:30, ha detto che non si è ancora svegliato, perché in realtà questa notte non è nemmeno andato a dormire. Dai, è un'altra bellissima impresa sportiva, insomma, adesso meriterebbero Carpi e Frosinone che se ne parlasse indipendentemente da quella famosa telefonata di Lotito, che poi tra l'altro l'abbiamo detto mille volte, secondo me non era una telefonata contro quelle due società. E se mi consentite, infatti lo dimostrano, ecco, il fatto che le società siano salite vuol dire che allora o Lotito non conta una cippa oppure che erano talmente più forti di tutte le altre, ma la verità di chi conosce il campionato di Serie B è che anche lì non mi sembra che ci siano stati disegni di nessun tipo, quindi io rimango convinto che quella fosse una telefonata il cui contenuto ovviamente è registrato e poi pubblicato a mezzo stampa, è stato certamente spiacevole, ha fatto certamente arrabbiare Carpi e Frosinone, ma credo fosse un discorso a grandi linee generali sul futuro del calcio italiano. Fra poco, tra l'altro, parleremo ci sta già ascoltando, anzi, fatemelo salutare da Miami, tra l'altro, quindi uno dalle spiagge della Liguria, Pierpardo, sì, e l'altro da Miami, Riccardo Silva, che saluto. Buonasera Riccardo. Lo presento al pubblico perché magari tanti non lo conoscono. Riccardo Silva è quell'uomo che va a vendere il calcio italiano in tutto il mondo, vende anche tantissime altre cose, perché vende Formula 1, NHL, NBA, vende tanti tantissime cose, ma lui è quello che vede così un po', diciamo che è un'azienda, siamo un'azienda con più di 100 persone, 20 uffici del mondo, e distribuiamo diritti televisivi un po' a tutte le televisioni del mondo, tra cui la Serie A, non faccio tutto da solo. No, vabbè, per carità, questo non sarebbe dura. Non riusciamo nemmeno noi a far da soli due ore di trasmissione, figuriamoci. Non è un dettaglio, perché perché in realtà Silva vende ed è un punto di riferimento mondiale, cioè non è che vende soltanto i diritti del calcio italiano, vende, se non sbaglio, anche la Formula 1, l'NBA, se all'estero. Quindi l'idea che ci siano degli italiani che comunque in qualche modo dominano il mondo dei diritti televisivi a livello mondiale, dove ci sono altri paesi che la televisione la sanno fare molto bene, insomma, credo sia un elemento di sì, siamo contentissimi perché la Premier League ci fa vendere i diritti in 51 paesi, il campionato francese in tutto il mondo, fuori dalla Francia ovviamente, la NFL abbiamo appena chiuso un mese fa per vendere tutti i diritti al di fuori del Nord America, quindi diciamo che riusciamo a farci valere. Sì, quindi è un buon momento, è un buon momento anche per il calcio italiano, voi che dovrete vendere Carpi e Frosinone in Serie A, visto che di questo stavamo parlando. Ma diciamo che il calcio italiano ha due vantaggi. Uno, sta vivendo comunque ancora di rendita, giustamente, dal periodo d'oro degli anni 80 fino a metà degli anni 90. Allora il calcio italiano, il campionato italiano, era un po' come la Premier League e la Liga messe insieme adesso. Cioè probabilmente c'erano tutti i migliori 10-15 giocatori del mondo erano in Italia e le squadre italiane dominavano. Quindi diciamo che in tutto il mondo questo è rimasto e quindi Milan, Juventus e Inter, al di là dei risultati sportivi di una stagione con l'altra, rimangono comunque squadre seguitissime in tutto il mondo. Inoltre negli ultimi anni c'è stato anche in generale un aumento del valore dei diritti televisivi un po' in tutto il mondo, soprattutto in America e in Asia, in Europa un po' meno, ma diciamo che quindi tutto il settore, tutto il mercato è andato bene, quindi questi due fattori hanno giocato a favore dell'aumento dei diritti televisivi del calcio italiano. Poi ci sono altri fattori negativi, ovviamente sì, quelli che conosciamo benissimo, sui quali dobbiamo lavorare. La Juventus in finale, finalmente c'è un'inversione di tendenza. Quanto ci guadagna il calcio italiano a livello di immagine con questa finale, comunque vada, a prescindere, 6 giugno? Sicuramente ci guadagna perché alla fine comunque la presenza nelle fasi avanzate in generale della Champions League è comunque uno dei motivi per cui c'è l'interesse o meno all'estero. Quindi non è solo una questione relativa alla Juve, cioè ci guadagna un po' tutto il movimento. Assolutamente, ma tutto il movimento, cioè ci sono tanti motivi. Uno dei motivi per cui abbiamo perso tantissimo terreno negli ultimi anni è perché non siamo un movimento unito, ma siamo divisi. La Bundesliga è compattissima nella sua attività, sia diciamo in Germania che all'estero, la Premier League è compattissima, non parliamo di NFL, NBA, delle leghe americane. Noi siamo uno contro l'altro, non ci si rende conto che mentre ovviamente sui risultati sportivi bisogna competere, sulle attività insieme di business, commerciali, di marketing, di tutto il movimento bisogna essere uniti. Purtroppo sappiamo tutti che in Italia ci sono addirittura due fazioni, un gruppo di squadre contro le altre, e questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo perso terreno. Abbiamo dedicato più energia e più tempo a farci le guerre inutili tra di noi che non a essere compatti, come ha fatto la Bundesliga, che ha fatto un lavoro incredibile e ha guadagnato un campionato che fino a pochi anni fa era inguardabile, adesso è diventato quasi di riferimento del mondo perché hanno fatto un lavoro insieme. Pier, ti piace l'idea di Coppa Italia? Poi abbiamo anche già parlato di qualche partita del campionato all'estero, paesi del Golfo, perché abbiamo letto ieri sulla Gazzetta un piano, dietro c'è sicuramente la mano di Riccardo Silva e anche di altri, che verrà portato ai club venerdì per cercare di esportare il più possibile il nostro calcio. Credo il fronte asiatico diventerà particolarmente interessante. Assolutamente, ma guarda, sinceramente ci sono alcune cose tipo la Supercoppa o appunto la stessa Coppa Italia, certamente sì. Poi insomma il campionato vero e proprio, anche se poi leggevo appunto del successo che ha l'NBA o l'NFL quando viene per esempio a giocare in Europa, io credo che qui il discorso non sia se ci piace o non ci piace, il discorso è se va fatto, vuoi o no, sopravvivere oppure no, cioè, molto banalmente e molto semplicemente. No, leggevo di quell'articolo lì per esempio il coinvolgimento di alcune vecchie glorie che potrebbero essere utili, Batistuta e Maradona, sì, andare a rifare la finale di Manchester da qualche parte con quei protagonisti lì, ho letto, no, anche. Questo è un progetto concreto, Silva? No, io semplicemente, noi siamo un'azienda che distribuisce i diritti televisivi, noi abbiamo dato dei consigli richiesti alla Lega Calcio su quello che può aumentare il valore in generale del campionato di calcio, poi noi non facciamo parte di questo progetto, abbiamo solo dato dei consigli, è un consiglio abbastanza ovvio, quando l'NFL fa 80.000 spettatori a Wembley per partite di campionato, attenzione, di campionato, ormai le amichevoli non ci crede più nessuno, in nessuno sport, in nessuna parte del mondo, bisogna fare partite ufficiali come la Supercoppa, come partite di campionato, quando la NFL o la NBA fanno il pienone a Londra tutti diciamo ah dovremmo essere come loro, poi quando si parla ma facciamo una partita anche noi, molti criticano ma come, ma no, ma perché, ma come si fa, allora o vogliamo, o cerchiamo di essere o cerchiamo di migliorare oppure torniamo agli anni 70 e facciamo anche tutte le partite alla stessa ora, cioè bisogna decidere, non è che poi c'è una cosa buona e una cattiva, come dicevate voi non c'è molta scelta, se bisogna rimanere a livelli competitivi mondiali bisogna farlo, prima o poi bisogna farlo e forse è meglio farlo prima che poi. Prego Pier. No, ma assolutamente, guarda, io credo che tante... No, quello che volevo chiedergli è veramente Carpi e Frosinone, nel senso che oggi per esempio leggevo un pezzo interessante di Sconcerti, che condivido, nel senso che è chiaro che dal punto di vista freddo del numero di biglietti venduti o del nome delle squadre, l'idea di avere, nessuno si offenda, Chievo, Sassuolo, Carpi e Frosinone nello stesso campionato di Serie A possa rappresentare apparentemente una diminuzione, però poi è anche vero che c'è il rovescio della medaglia, che è la storia, il fascino, quindi poi alla fine Frosinone e Carpi possono diventare realtà in qualche modo più seguite rispetto ad altre squadre, proprio perché diventano delle favole, è un ragionamento che ci può stare, e poi volevo chiedergli se nel progetto a 18 squadre al quale sta lavorando la federazione, insomma, se è un progetto che può contribuire ad aumentare gli introiti, perché le partite diventano meno e quindi da un punto di vista quantitativo potrebbe anche esserci una riduzione, però potrebbe diventare più interessante e più equilibrato il campionato. Allora, per quanto riguarda Carpi e Frosinone, in generale le squadre più piccole, allora all'estero non c'è nessun effetto, nemmeno negativo, perché comunque le squadre seguite sono Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, le più importanti, le altre cambia poco e tra l'altro non è che poi vengono trasmesse tutte le partite, vengono trasmesse le due o tre più importanti. Come noi in Spagna, per il campionato spagnolo guardiamo solo le partite di Real e Barcellona, poi la diciannovesima, la ventesima squadra ci importa poco. Quindi quello non c'è nessun effetto negativo, diciamo. Forse in Italia un po' di più, ma magari in Italia uno può dire ci sono grandi piazze che potrebbero Bari, Bologna, Serie A, certo. Bari, non so, Catania, Triestina, penso, non so. E però quello, insomma, poi sono, se ci sono le promozioni o retrocessione, quello è il sistema. E, l'altra domanda non mi ricordo. No, l'altra domanda è sulla riduzione a 18 squadre di cui si parla. La riduzione penso che sia assolutamente positiva, perché comunque meno partite ma più qualità, e assolutamente diciamo che è un trend di tutte le leghe, che sono andate tutte le leghe, di avere un po' meno partite ma più di qualità, assolutamente positivo. Grazie Riccardo Silva. Ciao, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Silva, traffico. Tutti convocati. Convocati. Adesso andiamo al giro, ti saluto Pier. Eccoci. Ti saluto che andiamo al Giro d'Italia, che tra l'altro ha visto vincere un italiano. Tutto torna. Napoli Fiorentina, che purtroppo siamo giorno. Ciao ragazzi. Sentiamo domani alle 2, Rino. Dopo le 14. Ciao. Invece noi andiamo al Giro d'Italia. Tiralongo che va a conquistare così la sua terza vittoria al Giro d'Italia ed è una giostra di emozioni per Paolo Tiralongo, una vita da gregario, potremmo dire, con licenza di colpire. Dunque oggi ha vinto Paolo Tiralongo, tiene la rosa Contador, guadagna un paio di secondi Fabio Aru, perde invece 45 secondi Uran. Questo è il riassunto numerico della nona tappa. Saluto Ivan Basso, ciao, ciao Ivan. Ciao a tutti. Ciao. Che ha detto questa prima settimana di giro e soprattutto questa tappa, che doveva essere una tappa mossa ma non da classifica, e invece insomma qualcosa ha mosso anche in alto. Sì, è stata una settimana veramente molto molto impegnativa per le difficoltà altimetriche, per come il gruppo ha affrontato queste prime tappe. Questa prima settimana ha detto che la Astana è una squadra fortissima, è sempre in superiorità numerica, e questo renderà per noi che abbiamo la maglia rosa sicuramente la seconda e la terza settimana molto molto molto difficile. Io non so se hai letto oggi sulla Gazzetta Bettini, che ha un po' bacchettato la Astana, ha detto non si può correre come ha corso ieri se hai Fabio Aru che deve fare classifica, e poi ha detto anche che invece voi lasciate un po' troppo presto da solo Contador su salite anche facili. Sì, io non voglio giudicare ovviamente l'operato della Astana. La Astana a mio parere, come ho detto poco fa, la squadra sicuramente più forte in questo momento, e noi confidiamo comunque di migliorare nella seconda e nella terza settimana per cercare di sostenere il nostro capitano, che in questo momento comunque è in maglia rosa, e quindi siamo in una posizione che volevamo. Ovvio che serve un supporto ancora più importante nelle prossime due settimane. Ma sei d'accordo che non ha ancora un padrone questo giro? Cioè, a me pareva che il senso fosse questo, quello della critica di Bettini, cioè anche a livello di squadre non c'è ancora nessuno che ha messo le mani sul gruppo. Beh, è stata anche una settimana molto cruenta, è stato un sacco di incidenti, non è stata una settimana banale, È stata una settimana molto molto difficile, ma soprattutto affrontata a ritmi altissimi. Questo porta i leader delle squadre nel finale di corsa a non avere più le gambe per poter fare una grande differenza tra di loro, che Contador, Aru, Forte sono ancora proprio racchiusi in pochi secondi, ma non bisogna dimenticarsi che siamo solo alla fine della prima settimana e il giro è molto lungo. Quello che è chiaro è che la Astana in questa settimana ha dimostrato di essere la squadra più forte, però la maglia rosa l'abbiamo noi, e quindi noi dobbiamo cercare di migliorare, di alternarsi a seconda di come stiamo e di proteggere il nostro capitano al meglio, e ovviamente accettiamo le critiche, e fa parte del nostro lavoro accettare gli elogi e le critiche, però noi sappiamo bene quello che stiamo facendo. Senti Ivan, parlavamo prima degli incidenti che ci sono stati in questa settimana, uno brutto, coinvolto anche Contador, eccetera. Hai qualcosa da dire su questa settimana di difficoltà dal punto di vista degli incidenti, o pensi sia tutto parte del gioco? No, parte del gioco, ovviamente quelle cose non devono capitare, però non i percorsi erano belli nei finali di corsa, quindi è stata un'imprudenza della persona che ha fatto la fotografia, altrimenti non sarebbe successo niente. Comunque bisogna pensare anche che il nervosismo e l'agonismo che c'è nella prima settimana di corsa porta insomma molto stress in gruppo, e quindi le cadute possono capitare. Quello che non deve capitare ovviamente è che un tifoso fa quello che ci siano dei pirla a bordo pista, questo è evidente, non dovrebbe mai succedere questo è chiaro. No, chiaro che non deve succedere. Contador sta bene, come non deve succedere anche quando ci sono nei finali di montagna in salita, certo. Correre molto vicino ai corridori a volte è pericoloso e si rischia veramente le spinte, di fare le pacche. No, disastro, quell'abitudine è pazzesca. Le secchiate d'acqua, pazzesca, quella tutte cosa cose che non vi piacciono di sicuro. Dimmi un secondo, Contador sta bene? Sì, l'abbiamo visto pedalare bene, recuperato Contador tutto. Contador è in maglia rosa, è chiaro che non è in perfette condizioni, perché comunque una caduta crea comunque un fastidio generale, quindi il nostro modo di correre è anche così, corriamo nel modo che va bene al nostro capitano. Questo, come ho detto, le cose in ogni squadra le sappiamo noi, e cerchiamo, ognuno fa il proprio gioco, quindi però siamo grandi e vaccinati e sappiamo benissimo quello che stiamo facendo. Assolutamente, grazie Ivan. Ciao Ivan. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Grazie Ivan Basso. Desidero ringraziare molto il presidente Squinzi per l'ennesimo invito così cortese che mi ha rivolto, concedendomi la possibilità di condividere la mia orgogliosa soddisfazione di cittadino italiano a reti unificate su Radio 24, Radio 24 e Radio 24. È sempre una però, presidente, perché ci chiama? Perché ci chiama? Da italiano desidero esprimere vivo gradimento per la splendida affermazione internazionale della Juventus che ha sollevato la coppa più prestigiosa, dicendo l'ambita. No, presidente, no, ci scusi. Non ancora. 6 giugno, la finale è 6 giugno, deve ancora giocarla. Ha fatto un bel risultato, però non ha ancora vinto. Prego. Desidero allora esprimere a reti unificate su Radio 24, Radio 24 e Radio 24. Le felicitazioni più fervide per il triplete della Juventus. No, il triplete non l'ha ancora fatto. Non l'ha ancora fatto. Per ora è uno solo. Bisogna anche un po' toccarsi. Perché, perdonatemi, sì, almeno la Coppa Italia. Non ha vinto neanche la Coppa Italia. 20 maggio, mercoledì gioca. Desidero cortesemente sapere, sì, ma che minchia ha vinto allora? Lo scudetto, presidente. Desidero allora esprimere vivo gradimento per il tricolore vinto gloriosamente. Oh, grazie, presidente. Arrivederci. Adesso sì che ci siamo. Era il nostro Andro Mercurio. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabelle, Valeria Bernardi in regia. Noi con tutti i convocati weekend ci sentiamo domenica alle 17. Domani, dopo il GR delle 14, Carlo Gente e Pierluigi Pardo. Ciao. Grazie a tutti. Ci vediamo tutti quanti al bar, 4 amici al bar.